Il 3 maggio 2010, la dottoressa Greco, direttrice del Museo Criminologico di Via del Gonfalone a Roma, consegna a Riss uno scatolone. Dentro due sacchi di plastica e una scatola di cartone. La vita e la morte di Pasolini erano tutte là. Questi reperti erano arrivati al Museo Criminologico nel 1985. L'omicidio era avvenuto 10 anni prima, la notte tra il 1° e il 2 novembre del 1975. 10 anni per arrivare là e ora altri 25 per essere guardati con l'attenzione dovuta. Nuove analisi su vecchi reperti. Su delega degli inquirenti della Procura di Roma, i carabinieri del RIS hanno compiuto un accertamento tecnico irripetibile. Si riesamina cioè tutto quanto è stato repertato in relazione al delitto. 13 mesi prima, l'avvocato Stefano Maccioni e la criminologa Simona Ruffini avevano vista accettata la loro richiesta di riapertura delle indagini sull'omicidio dell'idroscalo. Forse c'è un collegamento tra la scomparsa di Pasolini, quelle del presidente dell'ENI Mattei e del giornalista De Mauro. Era la quarta inchiesta in 35 anni. Chi fui? Che senso ebbe la mia presenza in un tempo che questo film rievoca ormai così tristemente fuori tempo? Non posso farlo ora, ma devo prima o poi sviscerarlo fino in fondo, fino a un definitivo sollievo. Lo so, ero appena partorito a un mondo dove la dedizione di un adolescente, buono come sua madre, improvvido e animoso, mostruosamente timido e ignaro d'ogni altra omertà che non fosse ideale, era avvilente segno di scandalo, santità ridicola, ed era destinata a farsi vizio, che marcisce l'età, la mitezza, e fa dell'accorato dono di sé ossessione. E se ho trovato di nuovo un'accorata purezza nell'amare il mondo, il mio non è che amore, nudo amore, senza futuro, troppo perduto nel brusio del mondo, troppo cosparso dell'amaro di un pur triste ciapliniano riso, e resa, umile ebbrezza del contemplare, partecipe, sviscerato e inattivo. Umile riscoperta ad un allegro restare degli altri uomini al male. Irreale vissuto da loro in un empireo di luoghi miseri, ridenti, sulle rive di gai torrenti, sui gioghi di monti luminosi, sulle terre oppresse dall'antica fame e senso della grandezza. Questo senso che mi strugge sui minimi atti di ogni nostro giorno. Riconoscenza per questo loro riapparire intatti, a me sopravvissuto e pieno ancora di stantio pianto. Plico 3424, jeans, cintura, calzini marrone, stivaletti neri, canottiera verde bucata. Plico 3257. Camicia intrisa di sangue, pullover, un altro pullover, pantaloni, giubbino rosso, maglia, giacca sportiva, canottiera, calzini, scarpe, fazzoletti, terriccio, pezzi di legno marcio. Cose dalla scena del crimine. Di chi? Non tutte di Pasolini, ovviamente. Dell'uomo allora poco più che ragazzino che fu condannato per l'omicidio, Pino Pelosi? Non solo. Di altri. Altri chi? 61, scatola valori, documenti, carta stradale, una statuetta, occhiali da vista, due libri, un plantare, 41. Non appartenente a Pasolini, non appartenente a Pelosi. appartenente a chi? Busta 3202, tra le altre cose, oggetti personali, un anello con una pietra rossa. Anello che fu ritrovato non lontano dal corpo del poeta, appartenente a Pelosi. Si cercava un anello quella mattina presto, in quei primi momenti di confusione, notizie incerte. Lo cercano i carabinieri e ce l'ha già in mano il capo della mobile Masone. Perché lo cercano i carabinieri? Se lo domanda Lucia Visca, allora giovanissima giornalista, avrebbe saputo di lì a poco dal brigadiere Cuzzupè, stanco per la nottata, dell'arresto del giovane Pelosi. E solo poco prima era venuta a sapere di chi fosse il cadavere. Erano stati convocati per un morto ammazzato all'idroscalo, al campo da calcio, presto quella mattina. Poi sulla rete di recinzione, circa a 70 metri dal cadavere, un agente aveva notato una camicia inzuppata di sangue. Gli cade l'occhio nella parte bassa, all'interno. C'è una specie di strisciolina, quella che mettono in lavanderia per distinguere i capi dei clienti. E c'è un nome scritto sopra. Pasolini. Non è possibile. Sale l'incredulità. Assale il dolore. Non è possibile. Come hanno potuto uccidere un poeta? Voi non mi conquistate con le gioie e i terrori dei freschi silenzi vostri, stelle invecchiate, e non mi trepidate gelide nel fiore dove impera un ardore dolce. La mia esistenza, ma con voi è lontano. No, non piango, non rido in questo cielo. Il Dio che io non so né amo, ma con voi è lontano. No, non piango, non rido in questo cielo. Il Dio che io non so. Si accomodi, si sieda. Lo sa quante persone importanti ci sono passate qui al Biondo Tevere? Tante. E ci hanno girato anche dei film, lo sa? È tanti anni che ce l'abbiamo io e Vincenzo. Vabbè, Vincenzo adesso non ci sta più. Ma mica ci venivano solo le persone importanti, ci venivano le famiglie, le coppie, a godersi la vista del Tevere e a mangiar bene. E me lo ricordo, sì, il maestro quella sera. Saranno state le 11:15, quel primo novembre del 75. Il ristorante stava per chiudere, ma il maestro era talmente caro e per lui si faceva sempre l'eccezione. Si sono seduti proprio a questo tavolo, Pasolini e il ragazzo. Lo sa, non è che tutti proprio il maestro lo amassero, insomma. Non piaceva a tutti, ecco. E mio marito quella sera, che era un po' tardi, preferì chiudere le serrande. Una forma di protezione per lui. Io parlavo col maestro. Mi piaceva confrontarmi su certi argomenti, ascoltarlo. Spaghetti, aglio e olio quella sera, ma non per lui, per il suo amico, che mangiò anche un quarto di pollo. Pasolini solo un po' di birra e una banana, aveva già cenato prima. E poco dopo la mezzanotte mio marito l'ha accompagnato alla macchina e si sono salutati come due vecchi amici. Il ragazzo che era con lui, me lo ricordo, sì. Aveva i capelli biondi, lunghi, portati all'indietro, di corporatura media, un bel ragazzo. Lo sa che mio marito, dopo il fattaccio brutto, era stato interrogato dai poliziotti, lo sa, sì? E gli ha descritto il ragazzo. Mi ha detto anche che gli hanno mostrato una foto. Gli hanno detto che quello della foto si chiamava Pelosi Giuseppe. E lui dalla foto l'ha riconosciuto, sì. Porello, il maestro. Gli volevamo tanto bene. Giuseppina Sardegna e Vincenzo Panzironi. L'avevano visto bene, sì, il ragazzo, quella sera, nel loro ristorante Biondo Tevere, qualche ora prima del delitto. Aveva mangiato solo lui, del resto. Pasolini era stato già a cena prima con Ninetto Davoli e la sua famiglia. Erano stati a cena a San Lorenzo, poi il poeta era partito per la sua notte. Proprio i capelli un po' come Ninetto portava Pelosi, così ricetti, scuri. Come ha potuto il signor Vincenzo riconoscere nella foto il biondino che era stato da loro la sera prima al Biondo Tevere? Peraltro di un biondino si parlava spesso al campetto all'Idroscalo. Pasolini era stato visto giocare a calcio con un bel giovane, un ragazzo biondo. Allora, o non fu Pelosi a cenare col maestro quella sera, o la foto mostrata dai poliziotti al signor Vincenzo non era veramente quella di Pelosi, o forse chissà, la suggestione. E un giorno Pasolini li aveva difesi, i poliziotti. La signora Giuseppina aveva detto che non a tutti piaceva il maestro. Un poeta comunista, iscritto al partito nel 1947, proprio dopo e nonostante la morte del giovane fratello Guido, partigiano, antifascista, ucciso da fuoco amico, trucidato sulla Carnia dai comunisti legati ai reparti di Tito, insieme a tutti i suoi compagni della brigata Osoppo Friuli. Si iscrive al partito Pierpaolo con convinzione, ma nel 1951 proprio il Partito Comunista di Casarsa, città della madre in Friuli dove erano sfollati, lo caccia in quanto omosessuale. Un comunista che scatena una polemica quando, dopo gli scontri di Valle Giulia nel 1968, scrive un pamphlet in versi in cui simpatizza con i poliziotti, identificati come i veri proletari. Un poeta comunista che scrive nel 74: non sanno vedere la trasformazione degli operai perché non hanno alcun interesse per gli operai. Non si accorgono delle facce dei ragazzi perché non hanno alcun interesse per i ragazzi, non hanno neanche occasione di vederli. Spesso mi sento stringere il cuore di fronte alla santità della gente. In fondo, accontentarsi di 1.000 lire di più in saccoccia è una forma di santità. Ma mi sento anche stringere il cuore di fronte alla paura degli intellettuali comunisti a essere anche un poco o solo idealmente disobbedienti. Guardano con uno spavento misto di ammirazione e odio chi osi dire qualcosa di opposto all'opposizione istituita. Mi chiedo che cosa temono. Si tratta dell'antica paura di essere lasciati indietro dal branco? Si tratta di umiltà? No, non sempre amato dai comunisti. È uomo di speciale, diversa, profonda religiosità, sfavorevole all'aborto e capace di dire di un papa: ci sono posti infami dove madri e bambini vivono in una polvere antica, in un fango d'altre epoche. Proprio non lontano da dove tu sei vissuto, in vista della bella cupola di San Pietro, c'è uno di quei posti, il Gelsomino. Un monte tagliato a metà da una cava e sotto, tra una marana e una fila di nuovi palazzi, un mucchio di misere costruzioni, non case, porcili. Bastava soltanto un tuo gesto, una tua parola, perché quei tuoi figli avessero una casa. Tu non hai fatto un gesto, non hai detto una parola. E non ti si chiedeva di perdonare Marx. Un'onda immensa che si rifrange da millenni di vita ti separava da lui, dalla sua religione. Ma nella tua religione non si parla di pietà? Migliaia di uomini sotto il tuo pontificato, davanti ai tuoi occhi, sono vissuti in stabbie e porcili. Lo sapevi. Peccare non significa fare il male, non fare il bene. Questo significa peccare. Quanto bene tu potevi fare e non l'hai fatto. Non c'è stato un peccatore più grande di te. No, non sempre amato dai cattolici. È spesso considerato un vizioso, un corruttore di ragazzini. Aveva ragione la signora Giuseppina. Non a tutti piaceva il maestro. E quella sera preferirono abbassare la saracinesca. Alle 9 del mattino del 2 novembre squillava il telefono in casa Pasolini. Risponde la cugina Graziella Chiarcossi. Pronto, Ninetto? Ninetto, sei tu? No, non è tornato stanotte. Dove lo aspettavi? Ah, mi dispiace, ma avete cenato insieme ieri sera, sì? E sono preoccupata, Ninè. Hanno chiamato i carabinieri di Ostia questa notte. Hanno arrestato un ladruncolo che guidava la GT di Pierpaolo. Sono tanto preoccupata. Alle 10, all'idroscalo, Ninetto Davoli riconosce il corpo dell'amico con tanta rabbia e tanto dolore. Dottor Masone, io gliel'ho già detto. Io non lo conoscevo quel signore, non sapevo chi fosse. Si è avvicinato a me, io stavo a Termini. Mi ha chiesto se ci facevamo un giro in macchina, che mi avrebbe fatto un bel regalo. Mi ha portato in una trattoria vicino a San Paolo, erano le 11, ma non mi ricordo il nome di quel posto, no, dottor, so che al Paolo lo salutavano tutti, con rispetto. Mi ha chiesto del mio lavoro. Siamo stati lì una ventina di minuti, poi siamo risaliti in macchina. Ha preso lo Stiense, mi ha detto che mi portava in un campetto isolato, che mi avrebbe fatto qualcosa e che mi dava 20.000 lire. Sì, il campetto, sì, è quello che dice lei, sì. Prima mi ha fatto qualcosa in macchina, poi ha voluto che scendessi, mi ha fatto appoggiare di spalla alla recinzione, mi stava appoggiato dietro, io gli ho detto, ma che te viene in mente, ma che ti sei impazzito? Ho preso un pezzo di legno, lui mi guardava con la faccia da matto, dottor. Sono scappato verso la strada e lui che mi inseguiva. C'avevo ste scarpe, queste qua con tacchi alti, sono cascato, mi sono sentito addosso il Paolo che ancora ci provava. Ho preso a divincolarmi, lui mi ha colpito in testa col bastone, lo vede qui dove non c'è rotto, me l'hanno messo al pronto soccorso. Sono fuggito ancora, lui mi ha colpito col paletto verde. Allora ho visto la tavola per terra, quella di legno, quella che dicevate voi. E le l'ho rotta in testa, ma niente. Gli ho dato due calci, lui mi ha colpito ancora. Allora, dottor, non ci ho visto più. L'ho colpito di taglio con la tavola finché è caduto a terra. Poi sono scappato, ho buttato le tavole, il paletto, sono salito in macchina e sono fuggito. Non lo so se sono passato sul corpo, non lo so, dottor, ero stravolto, non capivo più niente. Sono fermato alla prima fontanella per togliermi ste macchie di sangue. All'anello ci tengo, sì, e lo cercavo. Se l'avete trovato là, deve essermi caduto mentre colpivo. E poi mi hanno fermato i carabinieri. E il resto lo sapete, dottor. Ero solo, sì. Ero solo. Ve l'ho detto, dottor. Non c'è sta nessun altro, dottor. C'è stavo solo io. C'è stavo solo io. E questa è la prima dichiarazione di Pino Pelosi. Ne sarebbero seguite molte altre, diverse tra loro, fino all'ultima. Non sono stato io, e so che ha ucciso Pasolini. Pino Erpelosetto, detto anche Pino la Rana. Comodo per tutti, dare subito per buona la versione del ragazzo di vita, il minorenne sbandato, perfetto, per un film di Pasolini. Sì, forse sì. Comodo per molti. Che Roma fosse città coloniale dove venire in vacanza, ne dimorarono molti poeti non socialmente determinati, liberi dalla burocrazia e con un po' di paura della polizia. Ne mancarono i bei soli in questo secolo. Ciò che scompariva dava un breve dolore. L'unico vero dolore erano i sogni. Nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre. Non si piange su una città coloniale, eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole calante e fu spietata. Fu una scommessa tra i fascisti e i liberali. Inaspettatamente questi ultimi, in belli e anche un po' buffi, meridionali delicati di fegato, l'ebbero vinta. I forti furono battuti. Molta storia passò all'ombra di ministeri, ma che lacrime fossero sparse in sogno per questa città, ciò sa di miracoloso e quasi incomprensibile. Lacrime violente che parevano sparse sul cosmo, le lacrime degli addii alle partenze senza ritorno. Poi ricominciava la vacanza e una sete insaziabile di solitudine. Molta storia passò su questo asfalto e lungo i muretti di pietra insensibili al sole d'agosto, molta storia. I vecchi parlamentari onestamente, con solennità sedentaria, ripresero il loro posto, or ridenti or severi, verso i loro elettori, condividendone la pace col mondo, a ognuno il suo realismo. Avevano vinto la scommessa nel settentrione eroico, nel meridione segreto, e un sorriso popolare o una serietà piccolo borghese, insomma la ritrovata dignità, riportò pellegrinaggi di poeti liberi da classe sociale, senza obblighi né orari, sì che dopo il pianto la cosa più incredibile fu quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé. Gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze, con pomeriggi o notti intere davanti, in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava. Oh certo, non fu serio, fu una vacanza. Tutto doveva poi essere ragione di rimprovero. Roma fu sede di nuove battaglie. Da dove erano discesi questi barbari? Beh, erano nati qua, a via Merulana, a piazza Euclide, a Centocelle, e infatti bastava che impallidissero un po' ed ecco le facce dei loro padri, o sconfitti o vittoriosi, ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio. La storia ricominciò a passare, ma ai posteggi verso le 4 del pomeriggio c'era calma e sole. Dietro al quadraro i prati erano deserti. Il 27 ottobre 1962 parte da Catania un aereo per Milano. A bordo c'è il presidente dell'ENI, Enrico Mattei. L'aereo precipita. Il giornalista Mauro De Mauro riteneva che colui che aveva sostituito Mattei alla guida dell'ENI, Eugenio Cefis, avesse responsabilità precise nella morte di costui. Cefis con Vito Guarresi, legati al boss Giuseppe Di Cristina. De Mauro sparisce il 16 settembre 1970. Pasolini ama Catania, passa lunghi periodi in questa città. Il responsabile di sala della Putia di via Paternò, dove Pasolini andava a mangiare, se lo ricorda bene. Quanto piaceva al maestro ascoltare le mie poesie in dialetto. Meschino Pasolini, quanto si divertiva. Ai primi anni 70 la città è cambiata, è illividita. Droga e nuova generazione mafiosa. Anche Pasolini la sente diversa. Iarroso! Iarroso! Iarroso. In una delle deposizioni successive di Pelosi, quando ormai fu innegabile che la notte della mattanza vedesse protagonista un gruppo di aggressori e non lui solo, pare che il poeta fosse stato apostrofato così: Iarroso, omosessuale. Pasolini non ha grandi contatti con l'ambiente intellettuale catanese. Fugge a Catania per isolarsi, per sfuggire dall'ambiente romano, a volte per lui opprimente. È il professore, ora, a parlare. È un importante docente ad Harvard e alla Sorbona. Conosce da 30 anni il nostro giornalista Walter Rizzo, ma preferisce non essere nominato. Gli dice: «Mio caro, vedi, dopo le 8 di sera, per Paolo Pasolini bisognava lasciarlo stare. Era la sua seconda vita e lì non c'era spazio per nessuno. Pasolini aveva rapporti con i ragazzi del sottoproletariato catanese. Questi giovani lo incuriosivano. Chi sono? Come vivono? Quali sono le storie dei giovani del villaggio Sant'Agata? Era curioso. Faceva domande su tutto. Politica, bombe, forse caso Mattei. E questi giovani erano spesso legati allo squadrismo di destra, marchettari ma anche picchiatori di professione, che alle volte andavano in trasferta a Roma. Lo sai quante volte li ho incontrati sul treno Catania-Roma? Chi pagava loro questi viaggi? E per andare a fare cosa? Pasolini, nel suo libro Petrolio, aveva avanzato sospetti sulla morte di Mattei, alludendo a responsabilità di Cefis. Usava altri nomi, sì, ma il riferimento era evidente. E nel testo sembrerebbe mancare una parte, quella intitolata Lampi sull'ENI. Fu scritto senz'altro, perché l'autore qualche pagina dopo vi fa chiaro riferimento, ma nel manoscritto del romanzo questo appunto 21 non c'è. Il cugino di Pierpaolo, Guido, conferma di avere saputo in famiglia di un furto di gioielli e carte del poeta e le chiavi di casa tra i reperti non furono mai trovate. Qualcuno aveva quindi trafugato le carte di Pasolini, qualcuno poteva aver fatto sparire carte importanti, pagine che non dovevano essere lette. Ma il giallo si infittisce. Nel marzo del 2010 Dell'Utri dichiara di avere notizie di un manoscritto che conterrebbe Lampi sull'ENI. Poi ritrattano, non si sa, ma il manoscritto di fatto non viene mai presentato. E intanto è su istanza dell'avvocato Maccioni che si riaprono le indagini e si rianalizzano i reperti. Questi qui. Qui dove c'è Pierpaolo Pasolini. Olimpio Marocchi, poi morto, guarda il caso, in un incidente in compagnia di Pelosi, era un bambino quella sera all'idroscalo, ma se la ricorda bene. Suo nonno, intervistato dopo il delitto, aveva detto: «Lo scriva che è tutto uno schifo, che erano in tanti, che l'hanno massacrato quel poveraccio. Per mezz'ora ha gridato: "Mamma, aiutami!" L'avevano sentito in tanti, quelli che abitavano le baracche intorno. Qualcuno era anche uscito, temendo che si trattasse di familiari. Ma quando videro che si trattava di Pasolini,

madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Madri mediocri, che hanno imparato con umiltà di bambine di noi un unico nudo significato, con anime in cui il mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. Madri mediocri che non hanno avuto per voi mai una parola d'amore, se non d'un amore sordidamente muto, di bestia. E in esso vanno cresciuto, impotenti ai reali richiami del cuore. Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro feto l'antico, vergognoso segreto d'accontentarsi dei resti della festa. Madri servili che vi hanno insegnato come il servo può essere felice, odiando chi è come lui legato, come può essere tradendo, beato e sicuro, facendo ciò che non dice. Madri feroci, intente a difendere quel poco che i borghesi possiedono, la normalità, lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio. Madri feroci che vi hanno detto: sopravvivete, pensate a voi, non provate mai pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi. Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, ecco le vostre povere madri, che non hanno vergogna a sapervi nel vostro odio addirittura superbi, se non è questa che è una valle di lacrime. È così che vi appartiene questo mondo. Fatti fratelli nelle opposte passioni o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi, a rispondere del selvaggio dolore di essere uomini. Un testimone importante, trovato sempre dall'avvocato Maccioni nelle sue ricerche, Silvio Parrello, detto Erpecetto, un artista di Donna Olimpia, ma non l'hanno voluto ascoltare. La perizia dell'auto di Pasolini dimostrava che poteva forse essere stata questa ad uccidere il poeta, ma certamente anche un'altra auto che fu portata a riparare in una carrozzeria al Portuense da tale Antonio Pinna. Già Pinna si era presentato dal carrozziere Marcello Sperati, il quale si era rifiutato di sistemare quell'Alfa Romeo GT 2000 e lo aveva mandato da un certo Luciano Ciancabilla. È sempre il nostro giornalista Rizzo a stare appresso ai due carrozzieri. Marcello Sperati gli dice: «Sto Pinna m'ha portato la macchina, sì, ammaccata, sporca di fango, di sangue, e io in quella faccenda non ci volevo avere nulla a che fare. Allora ho chiesto a Ciancabilla, un amico mio, un altro carrozziere, perché non la ripari tu? E per quanto ne so io, lui l'ha fatto». Ma Ciancabilla, interrogato dal giornalista, risponde che mi posso ricordare di tutte le auto che ho sistemato allora. Ma la domanda è: perché nessuno aveva mai interpellato i due carrozzieri prima? Non un magistrato, non altri giornalisti. Antonio Pinna, poi probabilmente protetto da un potere criminale contro cui Pasolini si era animato nei suoi scritti, sparì nel nulla nel febbraio del 1976. Non si seppe più nulla di lui. La sua auto lasciata all'aeroporto di Fiumicino. Quindi, secondo Parrello, quella notte la vettura di Pasolini era seguita da una moto guidata da un pregiudicato romano. Seguiva un'altra moto con i fratelli Borsellino, ragazzini davvero amici di Pelosi a Casalbruciato, vicini alla destra. Seguono un'Alfa 2000 guidata da Pinna e una Fiat 1500 con tre uomini a bordo. Pinna con l'Alfa finisce Pasolini e quindi va a sbattere contro uno dei paletti di recinzione e l'auto si danneggia e viene portata alla carrozzeria del portuense. Perché nessuno ha ascoltato queste tesi prima? Perché si è voluto da subito far ricadere la colpa unicamente su un ragazzetto di borgata di 17 anni? E perché i genitori di Pino Pelosi ricevono il consiglio di nominare come difensore del figlio l'avvocato Mangia, già legato all'estremismo nero, che lo invita ad ammettere l'intera responsabilità del delitto? Chi aveva consigliato loro questo avvocato? Questo avvocato che disse a Pino Pelosi: «Tu all'idroscalo eri solo. Ci sarà giusto da dover far sparire alcune foto relative al sormontamento del corpo, ma...» I consulenti di Mangia, dell'avvocato Mangia, Aldo Semerari e la compagna, vicino ai neofascisti, vennero uccisi. Pinna sparì. I fratelli Borsellino, presenti alla mattanza, poi morirono entrambi, pare per overdose. Una catena di morti. Per cosa? Per proteggere un ragazzino di 17 anni? Chi doveva essere protetto in tutto questo? Chi? I ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro i fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo dan la caccia a un borghese, tagliano a pezzi la testa dei nemici e dei fedeli. I ragazzi giù nel campo colgono rami di rosmarino e camuffano buche e pozzi per acciuffare le ragazze. I ragazzi giù nel campo dan la caccia ad un ricco, gli fan togliere i denti d'oro e lo portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, e regala a questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi dalla tristezza. E fino a qui le ricerche preziose di un avvocato Stefano Maccioni, di una criminologa Simona Ruffini, di un giornalista Domenico Walter Rizzo, capaci di produrre un'analisi lucida e coraggiosa, e ora l'inchiesta è di nuovo aperta. Ma ancora un'ultima riflessione, oltre a queste da loro suggerite. L'ultima versione dei fatti, definitiva, pare, dopo varie versioni e ritrattazioni e interviste, l'ultima versione di Pino Pelosi sembra essere questa. Pino e Pierpaolo sono amici. Pierpaolo lo cerca, lo porta spesso a pranzo con lui, o al mare, o a girare in macchina chiacchierando, non gli chiede nulla. Gode della sua compagnia, affascinato com'è da sempre dalla vita, il sole, l'erba, la giovinezza, amando la vita così ferocemente da non sapere come andrà a finire. La mamma di Pino è contenta che lui frequenti un uomo importante, gli amici un po' lo sfottono, ma Pino si affeziona, trova Pierpaolo delicato come una bambolina di ceramica che hai paura di rompere. I fratelli Borsellino che frequentano la sezione fascista di via Subiaco, un giorno gli dicono: «Api, ci sarebbe da fare un lavoretto. Dovremmo portare via delle bobine di film dalla Technicolor. Dai, non sta lontana, no? Le dovemmo dare a Placidi. C'è anche un film dell'amichetto tuo». Ma Pino non partecipa al furto, viene coinvolto dopo. Si chiede una grossa cifra al produttore Grimaldi per la restituzione delle bobine, ma per Pasolini si fa un'eccezione. Il capo della sezione fascista parla con Sergio Placidi, piccolo principe del Tiburtino tra droga e prostituzione. Deve comunicare a Pasolini che a lui le bobine le ridanno per un prezzo simbolico. Lo sanno che lui è sempre stato dalla parte della povera gente. Dovrà portare 3 milioni di lire. E proprio Pino farà da tramite, ce lo accompagnerà. Questo è l'accordo. Ma il primo appuntamento salta. Si rinvia al 1° novembre, a Ostia. Il maestro può scegliere il luogo. E Pierpaolo sceglie il campetto di calcio dove va abitualmente a giocare. È il 1° novembre 1975. Pasolini è vestito in modo eccentrico, passa a prendere Pino Pelosi alle 22:30 a Piazza dei 500. Vanno a mangiare al Biondo Tevere, poi partono per Ostia, si fermano vicino alla porta del campo da calcio, vicino alla rete metallica. È buio. Pino deve scendere dalla macchina perché ha un bisogno. In quel momento arrivano due auto e davanti una moto. È una GT come quella di Pierpaolo, una Fiat 1500. Dalla Fiat escono tre uomini, uno alto con la barba, afferra Pino, lo minaccia. Gli altri due afferrano Pasolini dall'auto, lo colpiscono alla testa, al volto, con una mazza di ferro. Pasolini grida, cerca di rientrare in macchina, ma viene gettato a terra. Pino cerca di soccorrerlo, sì, ma viene colpito a sua volta. Pasolini scappa verso il buio. La GT allora cerca di fermarlo. Viene colpito ancora con le tavolette di legno, grida, chiama la madre, ancora urla terribili come di animale. Poi il silenzio. La GT e la moto spariscono nel nulla, rimane la Fiat. L'uomo barbuto strappa l'anello di Pelosi e lo getta a terra, quindi lo minaccia. Guai a lui se dirà una parola su chi ha visto e cosa. Pino è terrorizzato. È solo. Sale sull'auto di Pasolini, corre via, si ferma a una fontanella a lavarsi, imbocca una rotatoria contromano, i carabinieri lo inseguono e lo fermano. Lui poi accetta l'avvocato che gli viene suggerito, tanto sarà pagato da qualcuno molto in alto, perché lui si dichiari colpevole. Intimazioni anche successive in carcere, anche con lettere anonime. Ricordati, Pino, che fuori ci sono mamma e papà. Ora sono morti tutti, o sono vecchi. E Pino può forse dire finalmente la verità. Forse, perché alla presentazione del lavoro di Maccioni e colleghi, Pino Pelosi si presenta, fa un blitz all'improvviso, è arrabbiato con gli autori. È presente in sala un personaggio importante della politica e della cultura italiana che gli pone questa domanda: «Signor Pelosi, ma lei ha ancora qualcuno da temere?» Pino prende una lunga pausa e poi risponde: «Ni». «Ni» forse vuol dire che Pino deve ancora temere qualcuno e che forse non è ancora giunto il momento di dire tutta la verità. Pietà, pietà. Voi mi volete morta e sepolta, senza voce, senza gesti, senza viso, senza vita. Che non torni, voi dite, mai più la pazzia che essa fu qui tra noi. Pietà. pietà. Gente felice, voi mi sperate, impiccata, annegata, incendiata, maciullata. Che sta a fare, voi dite, se fa solo rabbia, e lo sa, qui tra noi. Pietà, pietà. Gente per bene, voi mi temete. Nel mio amore, nel mio vizio, nel mio ardore, nel mio odio, perché vive, voi dite, qua giù, peccatrice e tabù, qui tra noi. Pietà, pietà. Pareva eterno il mio destino di parlare, di cantare, di godere, di peccare. Ma sì, ma sì. Per me è finita, state tranquilli. Entro nell'ombra, vi lascio il mondo. Se questo che devi dirmi, Edipo, puoi stare tranquillo. Nessuno degli uomini può fare il profeta, nessuno. Stai a sentire, Edipo, e dimmi se non ho ragione. Una volta giunse a mio marito una profezia. Questa profezia diceva che egli sarebbe stato assassinato da un suo figlio, nato da me e da lui. Ed ecco invece che egli fu ucciso non da suo figlio, ma da una banda di rapinatori, lungo una strada stretta da un burrone e da un fiume. Ecco, puoi giudicare da te in che modo le profezie indovinino il futuro. Non preoccuparti, Edipo, credimi. Se Dio vuole mostrare le sue intenzioni, le mostra senza ambiguità e senza intermediari. Nessuno degli uomini può fare il profeta. Nessuno. Dice la Giocasta di Pasolini, nessun uomo può fare profezie. Quanto ha amato il mito Pasolini. Qualcuno ha ipotizzato che lui stesso avesse programmato la sua morte, una morte studiata, mitica, un olocausto. Nessun uomo può fare profezie, sapere quello che succederà, ma ogni uomo ha il dovere di capire perché certe cose siano successe. Qualcuno ha voluto che la morte di Pierpaolo Pasolini apparisse una squallida morte a sfondo sessuale, la morte di un pervertito, che non potrà quindi essere mito, culto, riferimento, una morte squallida, che non lo trasformasse in martire popolare, in icona. Certo, chissà ancora non dice, perché non è vero che sono morti tutti. Non è stato Pino Pelosi. Lui è stato inviato come un Giuda Iscariota dopo l'ultima cena. Allora, sono stati i neofascisti? O forse è un complotto legato a Cefis, al caso Mattei? O forse ancora è stata la malavita di Casal Bruciato contro un corruttore di ragazzini? Chi Chissà, forse l'inchiesta in corso ci darà risposte. Certo è che non dire la verità è stato come continuare a non avere nessuna pietà per Pasolini. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Così.